Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Dobbiamo tutti festeggiare Sergio Marchionne, e lo facciamo, in modo qualche volta perfino un po' ridondante su tutti i giornali e in tutti gli strumenti, gli organi, le tribune di informazioni. Ma festeggiare non è l'unico compito dell'informazione, direi anzi che è un compito tutto sommato secondario. Il compito principale dell'informazione è capire. Certo, Marchionne sta reduce da una campagna a Washington conclusa con un certo successo, sta intraprendendo addirittura una campagna a Berlino, dove i cannoni sono puntati contro di noi, i cannoni fattuali, diciamo, dell'interesse tedesco nazionale e i cannoni del pregiudizio anti-italiano. Marchionne, sapete quello che ha fatto e quello che vuole fare. Quello che ha fatto è più o meno prendersi la direzione di marcia, perché per quanto riguarda l'azionariato adesso in maggioranza sono i sindacati di Detroit, ma insomma prendersi la direzione di marcia e di ristrutturazione di questa grande azienda americana fallita, la Chrysler, prendersela con zero lire, praticamente gratis, e poi incorporare, questo è il senso della campagna di Berlino, la Chrysler e la Fiat a sua volta deagnellizzata, cioè una Fiat che diventa, attraverso il suo sistema di produzione automobilistica scorporato dal resto, diventa parte appunto di una nuova conglomerata. Sposare tutto questo con una grande casa di produzione automobilistica europea, per arrivare ai mitici 6 milioni di unità prodotti e per precostituire le condizioni di una vittoria nel mercato dopo la crisi. La casa europea di cui si parla è la Opel, che è una branca europea della General Motors. Quindi, insomma, la conquista dell'America, la conquista della Germania, e bisogna festeggiarlo. Però attenzione, io seguo sempre il paradigma Zucconi. Zucconi è un simpaticissimo collega che fa il corrispondente da Washington della Repubblica e che ha scritto questo, virgolette, figlia di un dio povero e frugale che mai avrebbe sognato di convertire le divinità dei motori nel loro santuario, figlia di un dio povero e frugale, la nostra bambina di latta arriva nella terra dei ciclopi d'acciaio per cercare di salvarli dalla loro cecità. La bambina di latta è la Fiat 500. Ho festeggiato verbalmente e con sincerità di cuore Marchionne. Penso che il suo tentativo, come d'altra parte pensano anche il Financial Times, il Wall Street Journal, i più qualificati organi di commento e di analisi della stampa internazionale, penso che il suo tentativo così, insomma, sia molto problematico, molto difficile, molto complicato, ovviamente, in una crisi così pesante, così profonda, ma che sia un tentativo che vale la pena di essere perseguito. Non vedo gli americani che viaggiano in 500, francamente no, non li vedo. La parola a Deborah Rosciani e poi faremo la nostra trasmissione per vedere di che cosa realmente si tratti quando si parla di questa grande campagna napoleonica mondiale di Sergio Marchionne e della sua Fiat. Bene, la bambina di latta, la 500, la conquista dei mercati mondiali, Marchionne, l'avventura americana e l'avventura europea. Abbiamo con noi ai microfoni il professor Giacomo Vaciago, docente di politica economica e direttore dell'Istituto di Economia e Finanza alla Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, Emiliano Brancaccio, docente di macroeconomia all'Università del Sannio a Benevento, Enrico Cisnetto, giornalista e docente di finanza alla LUIS, e Oscar Giannino, giornalista economico e editorialista molto noto. Professor Vaciago, se lei dovesse stabilire in percentuale quanto c'è di affabulazione, cioè di speranza, di buone intenzioni, ecco, in tutta questa partita straordinaria, in tutta questa avventura effettivamente molto bella che segnalano i viaggi di Marchionne a Washington e poi a Berlino, e quanto invece c'è di concreto, di realisticamente e presumibilmente, diciamo, concreto? Cioè, noi avremo, secondo lei, fra 3 anni un gigante dell'automobile, fra 2 o 3 anni che è capace di produrre 6 milioni di auto, con l'integrazione di tutte le complementarietà tra Opel e Fiat in Europa e con un rilancio di questa così disperatamente fallita Chrysler in America, i modelli, il gusto dei clienti, le modalità di produzione, i finanziamenti, il rapporto col mercato. Adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma insomma, quanto c'è di realismo e quanto c'è di, così, di buona intenzione, di buona volontà in tutta questa faccenda? Beh, tre cose importanti meritano di essere sottolineate. Anzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie delle domande. Ragioniamo sui fatti. Sergio sì. Marchionne, nato a Chieti, cresciuto a Toronto, sì. una delle più internazionali città del mondo, non solo del Canada, e poi passato all'Allo Suisse e gestiva la Lonza, la grande chimica globale svizzera. Bene, al curriculum adatto, certo. Vorrei aggiungere il tutto, scusi professor Vacciago, vorrei aggiungere un dato interessante, molto secondo me, il tutto poi da avvocato, nel senso che Marchionne ha una... non conta se sì. studi bene. Certo, sì. No, ma io lo dicevo in senso positivo. Cioè... è laureato in greco. Certo. Johnson. Allora, attenzione, a Balliol College però, Oxford. Allora, certo. Torniamo al tema. Marchionne ha le virtù italiane nella testa, ma è cresciuto nel mondo. Sì. E la sfida è che Fiat ripeta questo modello, cioè diventi la meno italiana possibile, basata a Torino, dove che c'è una città molto europea. Sì, la piccola Parigi. Ma a questa ricetta. Questa ricetta la fanno da anni, e l'ho sempre detto in questi anni, le nostre migliori aziende. Producono metà del loro fatturato in giro per il mondo ed esportano metà del loro fatturato italiano in giro per il mondo, perché sì. questo è quello che è successo di miracoloso, poco notato quando si coglie solo l'apparenza e si parla di milioni di partite IVA. Quella è folklore. La sostanza è che la parte migliore dell'Italia non è più solo italiana. E questo è il bello. Sì, lei dice quindi l'internazionalizzazione è una realtà, altro che buone intenzioni. Le virtù sono oramai queste. La Marazzi produce piastrelle in 12 paesi al mondo, non è una ceramica lì vicino a Bologna. Allora, se uno non capisce questo, il paese non è attraente e il nostro governo fa del suo peggio, da numerosi governi. Ma sì. per fortuna i bravi italiani hanno capito il mondo e crescono ovunque. Noi siamo nel PIL del mondo, non nel PIL italiano, che infatti va giù. Ma questa è la storia, e il fatto che Fiat faccia come tutte le nostre migliori aziende piccole e medie è un sogno, ci riempie di gioia, benissimo, perché ha un futuro. Torniamo al dato auto. L'America segue il modello inglese. Da anni l'industria americana dell'auto cresceva grazie agli altri, cioè ai giapponesi e così via. Basta andare nel Kentucky. Denver era rimasto il passato. Arriva certo. la Fiat. Oh, se non arrivava la Fiat, Obama doveva trovare altri fuori dagli Stati Uniti. Quindi anche lì l'America si conferma, come già l'Inghilterra, parte di un sistema globale. Arriva la Fiat a far crescere, come prima la Toyota nel sud, eccetera. Da anni anche l'America vale il modello inglese Wimbledon. Basta che si produca qui, venga chiunque. La prossima azienda che va in America a produrre cose importanti sarà indiana. Perché oramai questo è il mondo. Sì, anche qui sì. bisogna capirlo, e noi non l'abbiamo ancora capito come paese. Professore, mi scusi, la Renault provò a fare questa operazione con la Nissan, no? Una decina d'anni fa. Carlos Ghosn, queste grandi operazioni di ristrutturazioni partendo da crisi diciamo di un segmento importante. La Nissan era la Detroit del Giappone, era in grave crisi e tentò di ristrutturarla. Com'è andato quell'esperimento? Ma è andato malissimo, perché il Giappone è peggio di noi. Il Giappone è un muro, ha un muro intorno e non funziona. Il Giappone è un vecchio paese in declino. Crescono le migliori imprese giapponesi ovunque meno che in Giappone. Ho capito. Io faccio un po'. Il Giappone è peggio di noi. Approfitto della sua. Dove i migliori crescono fuori. Attenzione che Giappone, Germania e Italia sono i tre che erano assieme un secolo fa, che sono tre paesi in declino demografico, eccetera, dove le virtù crescono altrove. E succede alla Germania come al Giappone come all'Italia. Un altro particolare, io faccio un po' l'avvocato del diavolo perché naturalmente qualcuno deve fare questo sporco lavoro. Allora, dice il Financial Times, sì, ci sono molti elementi, effettivamente solo Marchionne è tutto sommato ottimista, con realismo e con e con perizia tecnica, un po' come lei. Però poi dice, certo, questo fatto che i sindacati sono adesso maggioranza nella Chrysler e diventeranno probabilmente maggioranza nella General Motors, i fondi sindacali, è un po', insomma, loro hanno questo precedente della United Airlines nel 95, si disse ristrutturiamo eccetera, fecero entrare i sindacati, nel 2002 saltò. Anche l'azionariato sembrerebbe avere una certa importanza in un'azienda, insomma, chi è il padrone di questo nuovo colosso? L'italiano l'ha capito. Come? Cioè, e secondo lei che questo è il futuro, i nostri sindacati l'hanno capito? Cioè, il dramma è che quando vedi queste cose ti domandi, ma perché in Italia no? È perché noi stiamo ancora cercando di cambiare il passato. Cioè, secondo lei i sindacati italiani dovrebbero contrattare una diminuzione, diciamo, dei dipendenti. In cambio di che cosa? In cambio di costo del lavoro differenziato nel sud. Attenzione, nel Kentucky i giapponesi hanno negoziato un costo del lavoro più basso. Però come le dicevo, si è competitiva. Sì, però come le dicevo, quando poi i sindacati, sì, ma quando poi i sindacati entrano nell'azionariato e diventano maggioranza, insomma, è successo che le cose non siano andate benissimo. E bisogna sapere anche lì che manager esprimono. Se esprimono manager scelti al loro interno, non vanno da nessuna parte. Però torniamo al fatto strutturale. Aspetti professore, al fatto strutturale torniamo dopo, devo dare un attimo la parola al professor Brancaccio, perché il professor Brancaccio è un po' una mosca bianca tra noi, insomma mosca bianca nel senso che è marxista, e parola ampiamente riabilitata, anzi direi che oggi c'è a tutti i professori, visto come stanno andando le cose nel mondo. E il professor Brancaccio ha scritto un articolo molto duro dicendo una sinistra degna di questo nome dovrebbe schierarsi contro queste operazioni, perché la realtà è che adesso hanno attaccato i salari dei lavoratori di Detroit e la struttura delle loro garanzie, non possono più scioperare fino al 2015. Insomma, hanno i lavoratori di Detroit, i sindacati di Detroit, la United Auto Workers ha praticamente firmato una resa. E questa cosa succederà anche in Italia e in Europa se quel modello verrà importato e se davvero Marchionne diventerà. Allora non vedremo più il Marchionne socialdemocratico che si mette d'accordo con tutti i poteri, eccetera, ma vedremo un grande manager multinazionale che farà carne di porco del sindacato italiano. Prego, Brancaccio. Infatti quella del Marchionne socialdemocratico era un abbaglio, diciamo, di alcuni esponenti della sinistra, secondo me. Ben lieto comunque di fungere da mosca bianca in questa bella trasmissione. Prego. Dunque, io vorrei metterla in questi termini. È stato detto che l'accordo con Chrysler riguarda mercati automobili molto diversi da quelle prodotte in Italia e quindi non dovrebbe pregiudicare l'occupazione negli stabilimenti italiani. Questa tesi però non mi sembra convincente, perché anche da quello che noi rileviamo nelle ultime ore, e questo è un punto delicato della questione, la Fiat non ha molte risorse finanziarie proprie e quindi non è detto che potrà, e non è detto nemmeno che potrà reperirle sui mercati. Questo significa che se si effettuano investimenti in una parte del mondo e sarà necessario farli, bisognerà per forza ridurli da un'altra parte. Ora, noi sappiamo che i sindacati americani hanno firmato un accordo capestro. Io non sono molto d'accordo col professor Vaciago circa, come dire, l'atto responsabile dei sindacati americani. Secondo me si sono più che altro genuflessi. Questo accordo prevede il congelamento dei salari, fine degli straordinari, cancellazione di molte festività, pericolosa destinazione nell'azienda delle risorse del fondo pensione degli stessi dipendenti e anche la rinuncia agli scioperi. Ora, questa che io mi permetto di definire una capitolazione dei sindacati americani ha ridotto molto il costo del lavoro e ha aumentato quindi in misura significativa il tasso di profitto che Fiat può attendersi dagli stabilimenti Chrysler, per cui se si tratterà di investire risorse, e ripeto, ce ne sarà bisogno, Fiat adesso orienterà i suoi investimenti negli Stati Uniti, per esempio non certo a Pomigliano, che pure invece avrebbe molto bisogno di investimenti per ammodernare i suoi impianti. Poi con Opel il discorso è ancora più evidente, nel senso che sappiamo che le piattaforme produttive, cioè le strutture su cui si costruiscono le Fiat e le Opel, sono pressoché sostituibili, quindi o le une o le altre sono eccedenti, per cui si tratterà solo di capire quali debbano essere chiuse, se in Germania o se in Italia. È una preoccupazione anche dei tedeschi, infatti. Mi pare di sì. E quindi a me pare, in sostanza, che questi sono esempi del fatto che, primo, un tempo si diceva quel che nell'interesse della Fiat è nell'interesse nazionale. Ecco, io non so precisamente se Marchionne stia proprio facendo l'interesse della Fiat, perché sono anch'io del parere che qualche ombra ci sia in tutta questa operazione, ma di certo, a mio avviso, è difficile dire che stia facendo l'interesse nazionale. Voglio anche dire questo, qui non c'è tanto da scandalizzarsi, si potrebbe dire che è il capitalismo, però mi permetto di dire che da quando... Aggiungendo bellezza, il capitalismo sì, bellezza. Di norma si aggiunge anche bellezza. Però voglio dire che da quando è partita questa crisi c'è stato un mutamento radicale che sta nel ruolo degli Stati Uniti, perché vedete, gli Stati Uniti prima agivano da gigantesca fonte di domanda effettiva mondiale, cioè quello che gli altri producevano gli americani lo compravano. Questa politica americana ovviamente creava sbocchi di mercato per tutti e quindi in qualche modo mitigava la guerra tra lavoratori di tutti gli altri paesi sulla competizione salariale. Adesso però la situazione è ribaltata, perché adesso gli Stati Uniti non creano domanda effettiva per il mondo, temo che non la creeranno per un bel po' di tempo, e quindi tramite sussidi statali, azioni sul cambio, ma soprattutto tramite una competizione salariale diretta, gli Stati Uniti partecipano alla guerra mondiale tra lavoratori e la alimentano. Ecco, aspetti. Un'ultima cosa, perché poi dobbiamo interrompere per la pubblicità, col professor Baciago. Questa rappresentazione degli Stati Uniti, che da bonanza mondiale, da grande performance per la domanda mondiale, diventano adesso i ristrutturatori del mondo a partire dai salari dei lavoratori, lei la condivide? L'effetto della crisi è quello di costringere gli Stati Uniti a riequilibrarsi al suo interno. Si estendono a Denver le condizioni che il sindacato americano aveva già accettato nel sud degli Stati Uniti per favorire l'arrivo di Toyota e così via. Quindi anche lì, in un certo senso, si abbassa il costo del lavoro nell'industria automobilistica, ma non per effetto di Fiat, insisto, è per effetto di India e Cina. E quindi le critiche del mio collega Brancaccio sono tutte ragionevoli se dicono che nel mondo globale, per evitare che la produzione industriale si sposti tutta nei paesi emergenti, la classe lavoratrice della parte ricca, cioè dell'Europa e degli Stati Uniti, deve accettare condizioni del lavoro diverse da quelle che poteva tenere finché noi eravamo i padroni del mondo, bene, cosa che non siamo più. Professore, lei ha poi da fare, quindi io dopo la pubblicità la lascio. Può stare con l'altro impegno e resto. Ah, bene, oh, come sono felice. Benissimo. Allora, Fiat Chrysler, Fiat Opel, la grande avventura di Marchionne nel mondo, 800 24 00 24. Domenica mattina, mentre circa 9-10 milioni di italiani in questa crisi radicale, che c'è effettivamente, ma che viene definita come una crisi bestiale che non se ne vedeva dal 29, ma forse anche da prima, stavano spaparanzati al sole, in spiaggia o in campagna, Marchionne lavorava e ha riunito il consiglio d'amministrazione della Fiat a Torino e si sono detti questo. Lui ha detto: mi autorizzate per favore a precostituire le condizioni di una nuova configurazione di questa nostra ditta, nel senso che la Fiat Auto si scorpora da tutto il resto, entra con Chrysler fallita ma ripescata da noi ed eventualmente con la branca europea della General Motors, cioè con appunto Opel e Saab, in una unione societaria e che può affrontare il mercato. Cioè noi andiamo lì dal mercato, dai risparmiatori, e gli diciamo: sottoscrivete i nostri titoli, dagli investitori istituzionali, dalle banche, sottoscrivete i nostri titoli perché siamo il futuro dell'automobile, che è un genere, produzione manifatturiera, tutto sommato, sì, sarà ultramaturo, però è un genere, diciamo, importante, e quindi dopo la crisi vi daremo delle possibilità. Ripartiamo da questo dato di fondo, cioè gli Agnelli che diventano azionisti minori di una grande conglomerata dell'auto, che diventerà, immagino, una public company con dentro appunto i sindacati americani e non so chi altri, e con gli investitori istituzionali e il mercato. Diamo un giudizio su questa che è la grande in fondo operazione varata da Marchionne domenica mattina. Oscar Giannino. Eccoci. Ma la mia opinione è che questo svolta, questa disponibilità della proprietà della Fiat sia giusta, saggia. Erano anni che si scriveva che bisognava procedere, ove si prendesse sul serio quello che veniva detto, cioè che la Fiat era disponibile a un consolidamento, che bisognava procedere appunto a uno spin-off per rendere disponibile Fiat Auto a discorsi di questo genere, che rendono implicita la volontà della proprietà anche di diluirsi, però di partecipare a un gioco più grande su scala globale, con volumi crescenti e soprattutto con presenze forti in mercati in cui, malgrado il risanamento di Marchionne, in questi anni la Fiat non era riuscita a entrare, perché la Fiat è debolissima sulla Cina, è debole sulla Russia, è fortissima invece sul Brasile, e poi c'è lo stabilimento polacco che al 90% sono queste due le cose che fanno il 90% dei suoi utili, ma ha bisogno di estendere la sua presenza, e per farlo approfitta in maniera straordinaria, mettendo in discussione anche l'attuale quota nell'attuale Fiat, e secondo me è saggio, approfitta in maniera straordinaria del fatto che tutti sono alle porte. Ecco, però le faccio una domanda secca. Adesso noi dobbiamo sperare che tutto questo riesca. Appunto, abbiamo detto, festeggiamo in anticipo questa nuova conglomerata. Però uno dei fondamenti è questo, che la Chrysler impara a produrre, diciamo, delle macchine un po' meno dispendiose sotto il profilo anche ecologico, e la Fiat porta in America, sfruttando questa grande rete di distribuzione che è la Chrysler, porta in America i subcompact, cioè queste macchine più piccole, eccetera, fino a questa roba della bambina di latta, della 500. Io però non riesco a immaginare gli americani in 500, e soprattutto c'è da constatare che prima della Fiat sono arrivati in tanti, giapponesi, coreani, a produrre i subcompact, cioè delle macchine un po' più modeste delle tradizionali macchine del modello americano. Cisnetto. Sono assolutamente d'accordo con le preoccupazioni. È vero quello che diceva Ciago, cioè che le condizioni del mercato sono queste e quindi bisogna aderire. Però è anche vero che abbiamo appunto festeggiato con troppo anticipo la riuscita di un'operazione che è ancora tutta da spiegare da un lato e verificare dall'altro, e un'operazione che fino adesso è stata celebrata solo per i numeri: 80 miliardi di fatturato, 160 mila dipendenti, ma i grandi numeri non necessariamente di per sé sono la garanzia di un successo. Francamente mi ha fatto un po' sorridere quando Obama ha detto che sceglieva Fiat per i suoi motori verdi e per la sua capacità di non inquinamento. Francamente ho rimarco che l'ibrido l'ha fatto i giapponesi e non noi, e soprattutto mi ha fatto sorridere il fatto che questa operazione è stata tributata di tutti quegli aggettivi che abbiamo ricordato all'inizio, perché è un'operazione di italianità. Però qui l'operazione è esattamente il contrario, cioè... Ah, lo ha spiegato benissimo Baciago, non è di italianità nel senso tradizionale del termine. Perfetto, però a me sembra che quelli che devo dire a difesa c'è quell'italianità, sì, là. Cisnetto, devo dire a difesa di Obama, che anch'io ritengo un po' a volte uno spacciatore di speranza, ha parlato di un futuro luminoso per Chrysler, e la speranza non mi sembra un prodotto manifatturiero, non so cosa ne pensi il professor Baciago, ma voglio dire, a difesa di Obama devo dire però che lui Wagoner l'ha cacciato, e che insomma una seria ristrutturazione l'ha fatta contrattare dai suoi uomini, cioè... Non c'è dubbio, ma diciamo che le premesse sono tutte corrette, e l'operazione dal mio punto di vista è un'operazione che secondo me va assecondata. Quello che è ridondante è il clamore e l'eccesso di aggettivazione, specialmente perché appunto si è parlato del fatto che l'Italia conquista gli Stati Uniti, mentre dovremmo dire che qui si mettono insieme dei pezzi di roba che non ha funzionato, nella speranza che mettendoli insieme funzioni e nella certezza che questa cosa italiana non sarà, cioè i titoli dei giornali avrebbero dovuto essere "Gli agnelli vendono la Fiat", diciamoci la verità. Beh, non sarà italiana in questo senso un po' tradizionale, oppure nel senso che diceva il professor Baciago? Professor Baciago, lei prima ha detto gli italiani sono naturalmente internazionalizzati, e finalmente lo fa anche la Fiat, il lo fanno anche le grandi. L'Italia cresce ovunque, non ho mai parlato di Italia che conquista l'America. Cristoforo Colombo non era l'Italia. Sì, questo è vero, era la regina di Spagna. Io non appartengo alla retorica nazionalista, ma le virtù di questo paese stanno nella testa di alcuni dei suoi uomini, che crescono ovunque meno che in Italia. Questa è la mia amara conclusione. Su questo Cisnetto è d'accordo? Sì, sono d'accordo, però attenzione, a parte che non riferivo a lui quella cosa, ma la riferivo a, diciamo, è d'accordo agli italiani, comunque. Ma sono d'accordo, ma attenzione, però quelle aziende a cui si riferisce il professor Vacciago sono comunque aziende la cui proprietà è certa ed è italiana. Qui invece andiamo a costituire un soggetto la cui proprietà lasciamo per perdere. Ora è ancora incerta, perché non c'è ancora poi la verifica di mercato, che poi anche da verifica, ma soprattutto è incerta anche dal punto di vista teorico, nel senso. Sentiamo che... Giannino su questo punto. Giannino? Ma io non devo dire la verità, non capisco molto tutte queste ubie italiane, non italiane, cioè ripeto, la non ha importanza, ma no, non è che non ha importanza, certo che ha importanza, però la realtà del mercato dell'auto è una realtà nella quale noi ci eravamo inebriati in questi ultimi due anni a celebrare il ritorno all'utile dell'auto. Il ritorno all'utile di Fiat Auto sta tutto in quei due stabilimenti che ho ricordato, non sul resto, perché sul resto si continuava a perdere. Allora noi partiamo da questo presupposto: c'è questa strapitosa crisi che consente a chi era consapevole di avere non imboccato uno strepitoso avvenire di conquista mondiale, ma aveva evitato di fallire, gli consente di darsi una prospettiva in cui l'obiettivo non è quello di vendere 500.000 500 negli sterminati spazi del nord-ovest americano, perché questo nessuno che abbia un'idea solida ci può credere. Infatti una delle condizioni sottoscritte con l'amministrazione Obama. Zucconi ci crede, Ho capito, ma Zucconi non le ha lette le condizioni. No, ma Zucconi scrive bene, così fiorisce la sua prosa. Però è quello di fare entro il 2011-2012, quindi oramai uno spazio time to market che il nuovo management Fiat ci ha insegnato che è in grado di rispettare, perché quelli fanno macchine dal concetto al mercato in 14 mesi. Entro il 2011-2012 un'automobile americana per americani, quindi non una dal concetto Fiat, sarebbe dal progetto, no? Esatto. Concept, progetto. È fare un'automobile che faccia 40 miglia con un gallone, certo. Ecco, cioè non l'ibrido, perché l'ibrido in effetti ha ragione Cisnetto, quello l'ha fatto Toyota, ma 40 miglia con un gallone è già oggi nelle possibilità, certo, delle tecnologie dei motori Fiat. Quindi, sempre ripeto, che il prezzo del petrolio, perché l'economia è diventata pazza, nei prossimi 5 anni non diminuisca ancora. No, non diminuisca ancora. Dal punto di vista dell'interesse, per cui tutti si ricomprano i bisogna super. Sperare che risalga il prezzo, appunto, del petrolio. Questo... Allora, Maurizio dalla provincia di Milano. Maurizio. Buongiorno, dottor Ferrara. Eccoci. Non sto lì a dirle che è un grande, perché lei lo sa. No, grazie, no, la prego. Grosso, grasso. Dica. Io, il mio parere è questo. Magari per mancare di rispetto o commettere il reato dell'esa maestà, ma da quando non c'è più Giovanni Agnelli le cose stanno andando molto meglio per la Fiat. Fin quando c'era Valletta, fino agli anni 60, la Fiat andava a gonfie vele. È entrato, subentrato Giovanni, 128, 127, Duna, Ritmo, macchine inaffidabili, macchine che nessuno più voleva. La gente, cosa dicevano gli italiani? No, meglio Renault, meglio Ford, mai Fiat. Cioè, incredibile, una marca come la Fiat non si vabbè, ma durante il periodo di gestione insomma di presidenza di Gianni Agnelli, anche qualche profitto la Fiat l'ha fatta, qualche espansione, qualche stabilimento nel mezzogiorno, insomma ci hanno provato. Adesso non lo faccio per difendere la memoria di Gianni Agnelli, che non ha bisogno di difensori, comunque ormai è storia. Ma va bene, grazie Maurizio. Carlo dalla provincia di Lecco. Buongiorno dottor Carlo Carana. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, io sono preoccupato, no? Solo per un fattore. L'operazione Fiat Opel. Sì. Le spiego di tutto facendole solo una domanda. Sì. Secondo lei è meglio una sicura vendita Iveco o 10 ipotetiche Opel? Le spiego in più il perché di questo. Perché per fare questa operazione la Fiat dovrà sbarazzarsi dell'Iveco. E questa è la mia preoccupazione. Riesce a capirmi? Sì, la capisco benissimo. Cioè, per fare un'operazione automobilistica così, come si può dire, tutta proiettata nel futuro, eccetera, è incerta, la Fiat si autonomizza e si sbarazza in qualche modo, comunque si separa da cose sicure che oggi funzionano abbastanza bene e fanno profitto. La ringrazio, passo la domanda al professor Vaciago e poi dobbiamo dare le strade in diretta. Professore, la preoccupazione di Carlo della provincia di Lecco è che poi i costi siano non solo costi sindacali di ristrutturazione, che sono comunque un problema, livello dell'occupazione negli stabilimenti italiani, eccetera, ma costi industriali di base, cioè siccome alla fine senza proprio un euro queste cose non si possono fare e non è detto che il mercato possa contribuire o gli stati possano contribuire, poi alla fine dovranno vendersi i gioielli di famiglia. No, io credo di no, credo che il vincolo qui sia manageriale, la Fiat diventa un'altra cosa e la squadra Marchionne che andava bene negli anni scorsi non è necessariamente in grado di gestire questa nuova grande Fiat globale, quindi il problema vero sono di nuovo gli uomini e la capacità di Marchionne di creare una squadra adatta al futuro. I soldi ne siamo di nuovo pieni. E il paradosso è che in questo momento sì, i soldi ti li regalano le banche sì, sì, e in giro per il mondo se c'è un progetto, perché per far ripartire l'economia le banche centrali con gli elicotteri stanno scaricando vagoni di banconote sui paesi, quindi al momento l'ultima delle preoccupazioni sono i soldi. La vera preoccupazione è che la Fiat diventa un'altra cosa e la squadra deve diventare globale e Marchionne, che è uomo che sta ovunque, deve riuscire a gestire una squadra tutta diversa. Questa è una sfida incredibile e noi possiamo solo sperare che riesca. Dal punto di vista manageriale sì, sembra così un racconto fantastico, un grande fumettone, una sceneggiatura hollywoodiana. Oh, bene, sulla Fiat e la grande avventura internazionale di Marchionne, del management, adesso va a Berlino, sapete tutto quello che sta succedendo, 800-24-0024, vorrei fare due domande un po' provocatorie, un po' strane, un po' anomale. La prima è questa, e la rivolgo al professor Brancaccio, economista marxista. Dunque, professor Brancaccio, i sindacati sono proprietari della Chrysler, i fondi pensione dei sindacati americani sono in maggioranza nell'azionariato della Chrysler. È vero che la Chrysler è fallita, Chapter 11, ma insomma è fallita con un progetto di riscatto attraverso l'alleanza con Fiat, sponsorizzato dal presidente democratico degli Stati Uniti. E i sindacati hanno più del 50% delle azioni. Questo per lei è una beffa oppure una bonanza? Ma guardi Ferrara, mia nonna mi diceva, e penso tante nonne lo dicevano, che non si mettono tutte le uova nello stesso paniere. Ora, che cosa voleva intendere? Voleva intendere, per esempio, che se i lavoratori americani mettono quote parte molto ingenti dei loro fondi pensione nella stessa azienda in cui lavorano, rischiano grosso, perché se questa scommessa non va bene, questi lavoratori si ritroveranno col rischio di perdere il posto di lavoro e di vedere il valore delle loro azioni svanire. Quindi a me questo discorso che i sindacati entrano nelle quote di partecipazione azionaria, soprattutto lo trovo una beffa, insomma, non secondo le modalità in cui è stata praticata, diciamo, nell'accordo Fiat Chrysler, secondo me è pericolosissimo. Ecco, vorrei fare invece al professor Vaciago e a Cisnetto e Giannino una domanda turbocapitalistica. Si parla sempre male degli hedge fund, cioè di quei fondi speculativi, diciamo, che sono stati i protagonisti della finanza cosiddetta allegra, rampante, avida, che sarebbe la responsabile di tutti i mali. Però poi in questa vicenda dell'automobile è venuto fuori un fatto, che mentre le banche americane, le grandi banche, Citigroup, JP Morgan, eccetera, hanno preso un bel po' di soldi di quattrini federali e obbediscono allo Stato, il quale gli dice abbattete il debito verso Chrysler perché così la rilanciamo, per ragioni anche di consenso politico, perché insomma si tratta di molte migliaia di lavoratori americani, si tratta del destino di una città come Detroit, le banche si devono piegare, gli hedge fund no, e Obama li ha attaccati, ha detto a questi fondi speculativi così poco patriottici. Gli hedge fund dicono ma noi soldi dallo Stato non li abbiamo avuti, nella crisi abbiamo retto noi speculativi meglio degli altri, se permettete vorremmo indietro i nostri soldi. Come giudica questa performance degli hedge fund e questo problema, diciamo, moral finanziario? Ma la mia opinione è che gli hedge fund rimangono utili, ma certamente quando sono animali finanziari che servono a far andare meglio le cose quando vanno già bene, sono pericolosissimi se ti fidi di loro per le crisi. Per le crisi ci vogliono i governi e le banche vere, cioè quelle di lungo periodo. E oggi siamo in crisi, non stupisce che gli hedge funds non parlino con la Casa Bianca. Anzi, sì, si mettono di traverso. Certo, certo. E Cisnetto e Giannino cosa pensano di questi, cattivoni? Sono d'accordo con quanto diceva Vacciago. Credo che il tema vero di oggi sia, siccome ci sono di mezzo dei soldi pubblici, chi fa l'azionista con i soldi pubblici direttamente allo Stato? In questo caso si è scelto di farlo fare al sindacato, il quale è vero che si prende, come diceva Brancaccio, dei mal di pancia, però è anche vero che rispetto per esempio alle responsabilità della cogestione tedesca, che comporta di essere nei consigli di amministrazione ma di non avere, diciamo, il controllo delle aziende, c'ha un rischio in più ma c'ha anche un'opportunità in più. Bene. E quindi diciamo, i soldi pubblici a chi devono essere intestati? Creiamo tante IRI in giro per il mondo o chi sarà il padrone? Questo è il grande tema di oggi. Bene, e Giannino? Mi tocca naturalmente, ma lo immaginavo, difendere i quattro fondi, perché vi faccio semplicemente riflettere sul fatto che quei fondi rispondono a chi gli ha prestato i soldi. Il problema è che con operazioni come queste si sospende il codice civile, perché lì i creditori della Chrysler hanno visto sospesa una norma ordinaria del codice civile per la quale i creditori sono garantiti sugli asset della società. Invece no, arriva un governo e dice: voi per ogni dollaro prestato non vedete più di 28 centesimi. Perché? Dice chi l'ha prestato. Dice: ma perché non vale il codice civile? Risposta del governo: no, per questa azienda da questo momento non vale più. E quello dice: e io come faccio a dirlo ai miei soci? Scusatemi, ma io voglio le regole che continuano a valere per tutti, perché altrimenti se si introduce il socialismo di Stato e si abolisce il codice civile, non parliamo più poi di manager che devono comportarsi. Parere chiaro, mi pare che Vacciago volesse intervenire e chiudiamo. No. No, ero io che va bene. Sì, quello prego, che è stato detto, siamo in una crisi gravissima, si diceva all'inizio. E nelle crisi gravissime, ahimè, anche i governi fanno quello che possono. E salta tutto, anche il codice civile. Gli unici che alla fine giudicano sono i cittadini, che possono mandare a casa i governi. Va bene, grazie a tutti, grazie al professor Vacciago, a Emiliano Brancaccio, a Enrico Cisnetti, a Oscar Giannino, grazie a tutti voi e agli ascoltatori. Avremmo potuto avere un'altra ora e ci saremmo divertiti. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrieri, in regia Alessandro Chiappini e Carmelo Lauricella, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. Ci sentiamo domani, stessa ora. Baci.